a slick chick. See, a neat chick. But she's what makes me tick. Mama. Hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick. Hey, hey. Hey, hey. The hot heels on for the baby blues. Very first time, man oh man, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Everybody stopped on a dime to look. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. She's my clickety click a stitch. Yeah, yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick. But she what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you know she's a stick? Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. I stick yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click it, click it, yeah, yeah, yeah, yeah. I got yeah, a crazy yeah, little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, yeah, you know she's slick. Yeah, yeah. Benvenuti e benvenute a Slick Chick, la terza puntata. Oggi il 2 novembre 2016, per chi ci ascolta in diretta, se no col podcast, boh, chissà. Sono le 21.04, fa il computer che ho davanti, ora della regia del Wombat. Chissà, magari i vostri orologi sono sintonizzati su un altro fuso orario. E prima di iniziare questa puntata vi dico subito i contatti della Wombat Radio, perché sennò poi me lo dimentico e allora mi levo subito questo dente. Allora, il sito iniziamo innanzitutto wombat.noblogs.org. Probabilmente, essendo una radio via web, lo sapete già perché siete arrivati da lì. Twitter, se volete seguirci, ci sono in diretta un po' di tweet sulle trasmissioni via via che ci sono, sul palinsesto, un po' di dritte, di informazioni, curiosità e quant'altro. Twitter.com ovviamente, Radio Wombat Fi. La pagina Facebook, se siete di moda e usate Facebook, la pagina è radio-wombat-firenze. E la posta a cui potete scriverci, posta wombat@insiberia.net, perché il wombat è un animale siberiano, come tutti sappiamo. Slick Chick in realtà non l'ho mai spiegato approfonditamente nelle puntate precedenti, però è un programma che, diciamo, che prende a pretesto varie cose, dettagli di qualsiasi tipo in realtà, un colore, una città, un anno, un'etichetta discografica, un oggetto, tutte cose che in realtà appunto sono un pretesto, banalmente per farvi sentire un po' di musica di tutti i generi. Io cerco di spaziare il più possibile, di non fossilizzarmi su un singolo genere, anche se ovviamente ho le mie preferenze e questa cosa... evidentemente la vedrete e la sentirete, però cercherò di essere il più varia possibile. La puntata di oggi, ad esempio, ruota intorno a un luogo fisico, ma un luogo abbastanza circostanziato. Non è una città, neanche un paese, un paesino, un villaggio, niente di tutto ciò. Proviamo a stringere ancora un po' l'inquadratura. Oltre il quartiere, attraversiamo l'isolato, percorriamo le strade, arriviamo a un edificio, un albergo, un hotel, quindi il Chelsea Hotel. Il Chelsea Hotel, che è a New York, è il quartiere di Manhattan, proprio a Chelsea, anche si capisce dal nome. È un hotel che è stato fondamentale, direi affascinante, e lo è tuttora, ma insomma, diciamo che in particolari momenti storici lo è stato in maniera proprio entusiasmante. Ne parleremo approfonditamente e iniziamo adesso però con questo pezzettino di Joni Mitchell che si chiama per l'appunto Chelsea Morning. It was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a ringing up like Christmas bells and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll wear it till the night comes. Up. It was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall. The red, green, and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a day. There's a sun show every second. On a portrait of today, and the streets are paved with passers-by, and pigeons fly, and papers lie, waiting to blow away. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey, and a bowl of oranges too. And the sun poured in like butterscotch and stuck to all my senses. Oh, won't you stay? We'll put on a day and we'll talk in present tenses. When the curtain closes and the rainbow runs away, I will bring you incense owls by night, by candlelight, by jewel light. Questa era Chelsea Morning di Joni Mitchell. Mi sono svegliata, era una mattina al Chelsea e la prima cosa che ho visto era il sole attraverso le tende gialle e un arcobaleno sulla parete, blu, rosso, verde e oro ad accogliervi, invitanti perline di cristallo cremisi. Questa è la puccettosa visione che Joni Mitchell aveva del Chelsea Hotel. Un posto incredibile, meraviglioso, bellissimo, fatto di arcobaleni e unicorni saltellanti. Ma purtroppo, o in realtà per fortuna, la realtà del Chelsea era probabilmente molto diversa. E stasera proverò a portarvici dentro, anche se in realtà per raccontare tutto quello che le pareti del Chelsea Hotel hanno visto non basterebbe un mese, 2 mesi, 3 mesi, un anno intero. E non essendoci, oltretutto io non essendoci mai stata, al massimo diciamo che possiamo dare insieme una sbirciatina, ecco, non tanto di più. Tutto ha inizio nella New York di fine 800, quando un architetto francese di nome Philippe Hubert, che aveva fatto una fortuna vendendo all'esercito americano di allora un brevetto per bottoni automatici, compra da un gangster in disgrazia un immenso lotto di terreno in quello che allora era il quartiere dei teatri, dei negozi chic, insomma la zona bene, culturale ma bene. Ci costruisce un edificio che avrebbe dovuto ospitare e poi in effetti ha effettivamente ospitato, il suo progetto ispirato alle idee utopiche di Fourier e i Falansteri. Qualcuno se li ricorderà, spero, almeno dalla scuola, Fourier e i Falansteri, boh. Hubert è un libertario, possiamo dire, in quell'epoca libertario forse era una definizione un po' strana, però per capirsi, un libertario, figlio di libertari, venuto via dalla Francia dopo l'insurrezione del 1848. Il suo progetto per il Chelsea era quello di rappresentare tutti gli strati della società in un unico luogo. Quindi c'erano appartamenti per tutte le tasche, atelier per gli artisti all'ultimo piano, studi insonorizzati per gli scrittori che non dovevano avere distrazioni, e poi c'erano delle sale da pranzo private oppure collettive giù al piano terreno, e un parco addirittura sul tetto con delle zone per la convalescenza dei malati, un angolo per la lettura delle poesie e dei sentieri per passeggiare nelle belle giornate. Un posto bellissimo. E non lo so, leggendo questa definizione, appunto non essendoci mai stata, posso immaginarla, a me veniva da pensare che Ballard potesse essersi ispirato al Chelsea Hotel per scrivere il suo racconto Condominium, che è uscito nel 1975, quindi insomma era il fulcro della bella vita al Chelsea Hotel. Ne parleremo dopo. E se non avete mai letto Condominium, ve lo consiglio moltissimo. E c'è anche un film uscito l'anno scorso che si chiama High Rise, che è il titolo poi originario di Ballard. E essenzialmente si tratta appunto di un condominio dove dentro c'è tutto il mondo. Ma non, adesso non dobbiamo parlare di Ballard e di Condominium, anche se mi piacerebbe un sacco e lo faremo più là, ma continuiamo a rimanere al Chelsea Hotel. Still in gear, thinking thoughts of playing more, singing loud and clear, trying to reach a friend somewhere and make that person smile, maybe pull myself away from that old lonesome mind that often comes to haunt me in the morning. Telling me that it would be a shame to break up such a grand success, tear apart him. All I know is what I feel whenever I'm not playing. Emptiness ain't where it's at, neither's feeling pain. Well now, what is gonna happen now is anybody's guess. If I can't spend my time with love, I guess I need a rest. Time is getting late now and the sun is getting low. My body's getting tired of bearing another's load. And sunshine's waiting for me a little further down the road. Questi erano i Jefferson Airplane, Third Week in Chelsea, ovviamente anche loro ospiti di questo strano posto. Dicevamo, così il Chelsea, dopo essere stato costruito da questo bizzarro architetto, inizia a popolarsi di facce e rumori. Negli anni 50 ci si trasferiscono moltissimi scrittori e poeti, da Dylan Thomas a Kerouac a Arthur Miller. Kerouac lì dentro ci scrive sulla strada, per esempio, un librettino così. Dylan Thomas, che era spesso in preda ad allucinazioni alcoliche, vedeva i mostri, vedeva, si dice, le blatte con i denti in particolare, ci vive con l'amante. Una notte torna a casa sfinito dall'alcol, dice di aver contato 18 whisky lisci nella serata, e viene portato in ospedale dove muore pochi giorni dopo. La moglie, tornata chiaramente dal Galles per andare a trovarlo in ospedale prima che morisse, finisce in manicomio dopo aver lanciato un crocifisso addosso alle suore in ospedale, coprendole, si dice, di bestemmie. Questa era la loro strana storia. Arthur Miller invece ci si rifugia dopo la fine con la sua storia, della sua storia con Marilyn Monroe, e qui scrive un pesante testo teatrale, pesante proprio, che parla di una bellissima amante suicida, chiaramente riferendosi a Marilyn. Non lo so, doveva essere un ometto spiacevole secondo me Miller, che si faceva pagare le spese degli alimenti per la moglie da Marilyn, e poi però la descriveva come un corpo alla mercé di chiunque. E forse perché in realtà ci si rispecchiava, Miller coglie bene però il cambiamento che negli anni 60 inizia a farsi largo in America, quando al Chelsea iniziano ad arrivare gli hippie e la controcultura americana. E dice: io vidi la nuova epoca, gli anni 60, entrare barcollando al Chelsea, nel Chelsea, con i giovani occhi arrossati, e tentai anche di unirmi alla danza attorno al palo di Canen di Maggio, ma non ci riuscii. Tutto continuava a sapere di egoismo e mollezza e non di libertà. Looking good now. Hush. baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, don't you cry. Don't you cry. Questo era Janis Joplin con Summertime, la sua interpretazione di Summertime, l'avete riconosciuta probabilmente, è un pezzo secondo me molto molto bello. Come avrete capito, in realtà io non sono una grande fan degli hippie e della controcultura americana, un giorno vi farò un pippone enorme dove vi spiegherò il perché, però Janis Joplin secondo me poteva dire e cantare quello che voleva, insomma. Janis Joplin e Leonard Cohen trascorrono una notte insieme al Chelsea, di cui Cohen conserva un ricordo indelebile. Ci scrive sopra una canzone, Chelsea Hotel numero 2. In realtà però ve la potrei far sentire, dove lui descrive quello che è successo più o meno nella notte, parla di lei. Non mi piace neanche troppo in realtà come ne parla, però... Boh, vi devo confessare, a me il pezzo non piace, a me piace di più il Cohen con quella voce più roca degli anni successivi. Quindi vi faccio ascoltare un pezzo tratto dall'ultimo album del 2016, dove la voce è rochissima e a me piace parecchio di più. Thank you. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker? We kill the flame. Lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hey, nay, nay, nay, I'm ready, my lord. Una voce roca, in effetti era un po' un rantolo quasi. Leonard Cohen, You Want It Darker. Un po' più tardi, con l'arrivo degli anni 70, il Chelsea Hotel passa dai colori psichedelici della cultura hippie all'argento glamour e al sanguinolento punk. Arrivano i Velvet Underground, Nico, il carrozzone della Factory di Andy Warhol, con il loro carico di orge, arte, film porno, iconoclastia e tanta, tanta eroina. Here's room 546. It's enough to make you sick. Bridget's all wrapped up in foil. You wonder if she can uncoil. Here they come now. See them run now. Here they come now. Chelsea girls. Here's room 115, filled with S&M queens. Magic Margaro, you wonder just how high by they go. Here they come now. See them run now. Here they come now. Chelsea girls. Here's Pope, dear Aunt Dean. Ron has treated him so mean. She wants another scene. She wants to be a human being. Here they come now. See them run now. Here they come now. Chelsea girls. Pepe, she's having fun. She thinks she's some man's son. Her perfect loves don't last. Her future died in someone's past. Here they come now. See them run now. Here they come now. Chelsea girls. He collapsed on the floor. shut him up with milk, and when he died, sewed him for silk. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea. Come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girls. È un saluto anche a Guido che ci sta ascoltando, credo, e che dice che il wombat non ha le orecchie, però secondo me in realtà ce l'ha, sono bellissime, solo che è un animale incompreso, non viene capito veramente. Questa era Nico con Chelsea Girls. Chelsea Girls è il titolo di uno dei film che Andy Warhol ha girato al Chelsea, per l'appunto. Inquadrature fisse su personaggi che giocano, ridono, scopano e si raccontano. Andy Warhol probabilmente era così, un occhio fisso che ti guardava da lontano, seduto, a braccia incrociate, un occhio che sapeva valorizzare e vedere la bellezza che aveva intorno, ma non ne partecipava. Non mi sono fatta una buona opinione di Andy Warhol, ve lo devo confessare, non me ne vogliano i suoi fans se ci sono all'ascolto, però è così. Quando David Bowie, poco più che ventenne, incontra il suo mito Warhol, ne rimane profondamente deluso e ferito. C'è un bellissimo filmato, in realtà veramente difficile da trovare, un po' raro, ma io l'ho visto all'interno di un documentario che parlava del glam, ma obiettivamente da solo non si trova, non so, forse era che è morto, lo ritireranno fuori. E in questo piccolo filmato Bowie descrive questo incontro che ha avuto con Warhol, mimando un lungo e penoso evisceramento, che era come lui vedeva questo momento. Sebbene fosse circondato da creature bellissime, Warhol aveva il potere di accenderle e guardarle consumare come un fiammifero. Molte delle superstar di Warhol fecero una triste fine. La più famosa è proprio quella che era considerata la bellissima e eterea musa di Warhol, Addie Sedgwick. Addie Sedgwick, che diede fuoco alla sua camera da letto al Chelsea mentre si appiccicava le ciglia finte al lume di candela, per darvi l'idea del personaggio, arriva alla Factory, che era lo studio creativo di Andy Warhol, la fucina dove lui e tutto il suo entourage, tutte le sue superstar creavano un po' di tutto. Arriva alla Factory già disturbata dalla vita, ma ancora sufficientemente sana, diciamo, da sperare di potersi riprendere. Nata in una delle più importanti famiglie americane, antenate dei padri pellegrini firmatari della Costituzione, pensate un po', i suoi antenati erano quelli che avevano fondato lo Stato americano, la Costituzione, avevano firmato la Costituzione americana. Lei e i suoi fratelli vengono tenuti fin da piccoli lontani dagli altri bambini. Vengono cresciuti con un senso di distanza e controllo invasivo e maturano delle ferite molto profonde, un rapporto con il padre che li porta quasi tutti alla morte o comunque all'autolesionismo o a una vita infelice, una tragedia insomma. Due dei fratelli si uccidono a distanza di 18 mesi l'uno dall'altro. Sul secondo c'è un po' di dubbi che si sia ucciso, in realtà ha avuto un incidente un po' bizzarro in moto, ma diciamo che molto probabilmente sono uccisi tutti e due. Eddie fa avanti e indietro dagli ospedali psichiatrici per disturbi alimentari e anoressia, essenzialmente. Quando arriva a New York, ancora adolescente, circa sui 17 anni, inizia la carriera da modella, conosce Warhol e diventa una dei suoi protégé. Si trasferisce al Chelsea Hotel, dove conosce Bob Dylan, con cui ha una triste storia. Ad esempio, finché lei era in vita, Bob Dylan non ha mai ammesso di averla frequentata. Solo quando è morta ha detto che sì, effettivamente, l'avevo frequentata. Una storia fatta di consumo e scarto, di illusioni e bruciature, molto amara e molto brutta, cosa che non mi lascia, diciamo che non mi fa stare simpatico neanche Bob Dylan, ma vabbè. Eddie Sedgwick inizia a ingoiare barbiturici in continuazione in questo periodo, esce dalle grazie di Andy Warhol piano piano ed entra negli ospedali psichiatrici, fa avanti e indietro in continuazione, ancora anoressica e sempre più distrutta. In manicomio conosce un paziente che poi finisce con sposare, pochi mesi dopo il matrimonio muore a 28 anni nel 1971 per l'ennesima overdose di barbiturici. Ne aveva avute altre e questa è stata quella fatale. Eddie Sedgwick non è sepolta nel mausoleo familiare, il mausoleo familiare della famiglia, ricordiamocelo, appunto, dei padri pellegrini della patria, vi potete immaginare cosa non sia. Lei non c'è dentro questo mausoleo, non ce l'hanno voluta evidentemente, e in realtà è stata sepolta nel piccolo cimitero di Oak Hill Cemetery in Ballard, ricorre questo nome, California. Nel 1967 Andy Warhol aveva chiesto ai Velvet Underground di scrivere una canzone su Eddie Sedgwick e ne era venuta fuori la strafamosa e anche bellissima, obiettivamente, Femme Fatale. Perché Andy Warhol l'aveva descritta come una Femme Fatale, gli aveva detto, c'è questo aneddoto che viene raccontato dove lui ride e gli dice, sì vabbè, ma che vuoi che scriva su Eddie Sedgwick? E lui gli aveva detto, vabbè, non ti sembra una diva, una Femme Fatale, e lui ci ha scritto questo pezzo. Però in realtà c'è un'altra canzone, sempre dei Velvet Underground, che a me piace molto di più e sembra molto più adatta alla vita di questa triste donna. È una canzone che si chiama After Hours e dice così: All the people are dancing and they're having such fun, I wish it could happen to me, but if you close the door, I never had to see the day again. Tutti stanno ballando, si divertono un sacco, vorrei potesse succedere anche a me. Ma se chiudi la porta, non dovrò più rivedere il giorno un'altra volta. One, two, three. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains looking grey in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again. Nel 1967 Arthur Miller aveva inutilmente segnalato alla direzione del Chelsea Hotel un personaggio piuttosto fastidioso, la scrittrice femminista Valerie Solanas. La donna non la finiva di importunare gli ospiti, pare, proponendo copie di The Scum Manifesto, il suo libro, che conteneva una brutale invettiva contro la cultura patriarcale e incitava le donne a eliminare tutti gli uomini. Scam, infatti, pare che stia, anche se lei in realtà l'ha un po' negato in seguito, ma insomma non era tanto rifinita come si vedrà dopo, pare che stia per Society for Cutting Up Men, una delle frasi più famose del pamphlet, che è stata ripresa anche da un omonimo pezzo degli Area, dove appunto viene recitato integralmente, recita: in questa società la vita, nel migliore dei casi, è una noia sconfinata e nulla riguarda le donne. Dunque, alle donne responsabili, civilmente impegnate e in cerca di emozioni sconvolgenti, non resta che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione globale e distruggere il sesso maschile. Valerie Solanas, il 3 giugno del 1968, entra nella hall della Factory e spara a Andy Warhol, riducendolo in fin di vita. Erano i Big in Japan, un gruppo inglese che purtroppo è vissuto soltanto tra il 1977 e il 78, un anno solo, però peccato perché secondo me erano proprio belli. Il pezzo si chiamava Scam, come avete potuto sentire. La lista degli ospiti illustri del Chelsea Hotel è impressionante, basta che la guardate su Wikipedia o ovunque, è lunghissima e probabilmente anche molto incompleta. Nel corso degli anni, oltre ai già citati finora, hanno vissuto lì Ginsberg, Burroughs, che fra l'altro ci ha scritto Il pasto nudo, altro romanzetto, Corso, Thomas Wolfe, Edgar Lee Master, Basquiat, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Edith Piaf, Mark Twain, Richard Tribesson, Frida Kahlo, Diego Rivera, Robert Crumb, Arthur C. Clarke e Stanley Kubrick, che insieme in quel periodo, in quel luogo, hanno dato vita a 2001 Odissea nello spazio. Insomma, il Chelsea ne ha viste obiettivamente di tutte. In diversi l'hanno scelto come luogo per venircisi a suicidare, sì, è andata così. Molti altri ci sono morti sfatti di droghe, alcol o altro, che probabilmente era il prezzo per tutto quello che poi è stato prodotto in quegli anni. In tantissimi ci hanno trovato un rifugio, un posto infinitamente stimolante o uno scrigno pieno di idee. Un po' di esempi: la dama della buona società, cosiddetta Almira Wilcox, vi fece un'overdose di sonniferi mentre scriveva una lettera d'addio rimasta incompiuta. Un'altra ospite, Etelka Graf, la giovane moglie di un pianista, si tagliò una mano, la lasciò sul tavolo e si buttò dal quinto piano. Molti sopravvissuti al naufragio del Titanic soggiornavano spesso al Chelsea perché il Chelsea era vicino al molo dove avrebbe dovuto attraccare il Titanic. All'ultimo piano del Chelsea, come abbiamo accennato all'inizio, c'erano tutti gli atelier artistici e c'era anche l'atelier dell'artista e collezionista Arthur B. Davis. Dopo la sua morte prematura, gli amici e i collezionisti che frequentavano il Chelsea decisero di onorarne la memoria fondando il Museum of Modern Art di New York, ovvero il MoMA. Sempre su Radio Wombat o Wombat Radio e su Slick Chick, in particolare la trasmissione che del mercoledì alle 9, e questo era Fire on Unknown Origin di Patti Smith. Questo era il suo primo pezzo inciso, pare, composto proprio al Chelsea Hotel, dove ha vissuto per diverso tempo dando vita a quel luogo. E poi, ovviamente e incontenibilmente, al Chelsea c'erano i punk di Dee Ramones, che nella seconda metà degli anni 70 scelse il Chelsea come luogo per disintossicarsi dall'eroina. un'ottima scelta, proprio ottima. E stranamente, ma veramente incredibilmente, il piano fallì. Ma il soggiorno fu comunque utile perché gli permise di scrivere il romanzo Chelsea Horror Hotel, che io non ho letto e penso non leggerò mai, ma sappiatelo come aneddoto. Poi, oltre a veramente molti altri, c'erano i New York Dolls, soprattutto Johnny Thunders, che non a caso era più sfatto, Iggy Pop, Tom Verlaine e Richard Hell, dei Television. Questi erano appunto i Television con Venus, dal primo album Marky Moon, e ne parleremo più approfonditamente dei Television più in là, in una puntata che vorrei fare con un ospite speciale dove parleremo del CBGBs, ma adesso li avete sentiti così, un po' buttati lì. Tra i punk ho volutamente tralasciato di citarne due importanti, perché sono gli ultimi due ospiti del Chelsea Hotel di cui racconterò un po' più nel dettaglio. sono Sid Vicious e Nancy Spangen. Spero che si dica così, non lo so, perché si dice sempre Sid e Nancy, il cognome in Italia nessuno lo considera. Comunque, erano appunto Sid Vicious e Nancy Spangen. Non so se c'è bisogno che lo dica, però erano i Sex Pistols con Pretty Vacant. E ora un sospirone, perché dobbiamo parlare di questa triste, brutta e amara storia di Sid e Nancy, che molti di voi sapranno già e che però, parlando del Chelsea Hotel, non posso non raccontare. Agli inizi del 1977, in occasione di un concerto degli Earthbreakers con Johnny Thunders di qui sopra, giunge a Londra un'americana, una groupie degli Earthbreakers, Nancy Spangen, appunto. A Johnny Rotten Nancy non piace per niente, soprattutto per i suoi noti casini con l'eroina. Si vedeva che la ragazza era un po' messa male e cerca di tenerla lontana da Sid. Ma i due sembrano fatti l'uno per l'altra e diventano inseparabili da subito. Ovviamente anche Sid inizia a farsi d'eroina, regola d'oro. Sid era da poco entrato nei Sex Pistols, era traumatizzato da una famiglia devastata completamente, la madre è tossica, non sapeva neanche suonare il basso in realtà Sid. Era totalmente sfatto e inaffidabile, e l'eroina Ecco, l'eroina era proprio la ciliegina sulla torta che mancava a completare il quadretto. Nel 78 i Sex Pistols fanno il loro primo tour in America e Sid e Nancy si trasferiscono a New York, dove ovviamente al Chelsea Hotel. Due giorni dopo l'ultimo concerto del tour americano, appunto, Sid Vicious festeggia anche la sua prima overdose di eroina, seguita da tre giorni dopo da una caduta in coma, tanto per. La vita prosegue con questo ritmo frenetico. Il 12 ottobre del 1978, nella stanza numero 100 del Chelsea Hotel, Sid si sveglia e trova Nancy morta, accoltellata all'addome, accasciata in bagno sotto al lavandino. Sid chiama la polizia, però non si ricorda niente. La notte prima era praticamente svenuto, tramortito dall'eroina. Viene arrestato, ovviamente, rilasciato sotto cauzione, pare l'abbia pagata la EMI, comunque la sua etichetta discografica, l'etichetta discografica dei Sex Pistols. Sid è distrutto, confessa, poi ritratta, poi non sa, non si ricorda niente, ma comunque alla polizia importa poco del resto. Pochi giorni dopo, che appunto avendogli pagato la cauzione esce dal carcere, il primo febbraio del 1979, alla festa per il suo rilascio, la madre gli dà la dose di eroina che gli causa una prima overdose. Viene salvato da un'amica, poi prende un'altra dose e poi sembra un'altra ancora. Sid Vicious si addormenta e viene trovato morto il mattino dopo. Un biglietto d'addio sul tavolo che chiedeva di essere sepolto di fianco a Nancy, con addosso i jeans, la sua giacca di pelle e i suoi anfibi. La madre di Nancy si oppone. Il corpo di Sid viene cremato e su quello che ne è stato delle ceneri esistono in realtà due versioni. La prima dice che furono sparse sulla tomba di Nancy, in modo romantico. La seconda, che la madre di Sid le riportò in Inghilterra, ma appena arrivata in aeroporto le cascò di mano il vaso che si ruppe, spargendo le ceneri ovunque. E questo è quanto. Questa è l'amara storia. I don't want to live this life anymore è una poesia che Sid Vicious ha scritto alla madre di Nancy dal carcere di Riker Island. I Ramones ne hanno fatto questo pezzo. My heart trembles. Questi erano Shannon O'Connor e Shane McGowan in Haunted, un pezzo veramente pop, abbiamo messo un pezzone pop, però vi devo confessare che per me Shane McGowan dei Pogues potrebbe, è un altro personaggio di quelli che potrebbero cantare quello che gli pare e io li perdonerei e gli vorrei bene comunque. E poi comunque questo pezzo era tratto dalle musiche del film Sid e Nancy, film che non ho visto ma che... No, probabilmente penso sia orrendo e cioè, penso non lo vedrò onestamente, ma magari fatemi sapere se invece vale la pena, non credo, ma magari mi convincete. Nel 2011 il Chelsea Hotel è stato venduto a un imprenditore miliardario per 80 milioni di dollari, che l'ha poi rivenduto a sua volta a un albergatore di Las Vegas. Ultimo passaggio, è stato ricomprato da poco dal magnate Ed Schwitz, che lo sta ristrutturando e afferma di volerne preservare intatto lo spirito. Boh, non lo so. Nella gentrificata New York mi sembra bello, ma dubito. Vedremo, vedremo, vedremo. La puntata di oggi è finita. Vi ho detto un sacco di cose sul Chelsea Hotel. Prima di lasciarvi con l'ultimo pezzo, se vi siete incuriositi e volete saperne di più del Chelsea Hotel, il luogo dove tutto si può dire iniziato e molte cose sono finite, vi consiglio di guardarvi il film di Abel Ferrara che si chiama Chelsea on the Rock del 2008, che è molto molto interessante secondo me e spiega un po' di cosette, un po' di episodi, è un film un po' visionario, bello, bello, secondo me è bello, vale la pena. E quindi basta, non mi resta che lasciarvi nelle mani di un altro illustre ospite del Chelsea, il maldestro e dissonante Johnny Thunders, e vi saluto e vi lascio in compagnia tra poco di 8 Hertz e vi do appuntamento a mercoledì prossimo alle 9, sempre su questa meravigliosa radio appena nata, Wombat Radio. Ascoltateci, siateci fedeli, ciao! Could be achieved. Life could be so nice. I could walk around, be around, and nobody know I was around. I feel guilty about an imperfect life. It's time for me to take what's mine. I don't want to live in the present. I make myself ill at times I'm happy, but your society makes me sad. Your society makes me scared. Your society makes me This one was dedicated to Los Lobos, this last one, all right?